arrivarono al silenzio i cambiamenti come dei lampi graffiano il buio. Io volevo fare solo il musicista, lei ci credeva mentre studiava. Per andare via servono gli euro e un filo di rabbia. Per andare via lontano il capomastro appeso ad un traliccio grida il cielo non esiste. Pure la luna è una messa in scena, ma la luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d'accordo, pure i pesci che li vedi brillare. Si vede la fine, meno male. Lontano.